precisa la lite, o pa pagarla o sposarla, ora mutite. Io respiro ed io moro. Ma in sposa io sarò, non ho ancora. Eccellenza, m'appello. È giusta una sentenza, a pagare o sposar. Bravo Don Curzio. Papa Pontati, sua eccellenza. In che superba sentenza? In che superba? Siamo tutti vendicati. Io non la sposerò. La sposerai. O pa pagarla o sposarla, lei t'ha prestati 2000 pezzi duri. Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti. Dove sono? Chi sono? Lasciate ancor cercarmi. Dopo 10 anni io spero ritrovarmi. Qualche bambin trova. Ne ho perduto, dottor, anzi, rubato. Come? La prova! Il testimonio! L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritroverò addossi ma snaddieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico. Una spatola hai preso il braccio destro! E a voi chi il disse? Oddio, ed esso! È vero, sono io! Chi? Chi? Raffaello! E i ladri ti rapirono! Presso un castello! Ecco tua madre! Balia! No, tua madre! Sua madre! Cosa